America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, oggi abbiamo un'attesa per due sviluppi importanti. Il primo, interno, Ferguson, Missouri, è la località dove sono esplose le tensioni razziali dopo che lo scorso agosto Darren Wilson, un poliziotto, ha sparato e ucciso un giovane disarmato, Michael Brown, un giovane afroamericano. Il grand jury deve decidere se incriminare il poliziotto per omicidio o se chiudere il caso come un incidente. Ecco, un verdetto difficile, doveva essere annunciato già venerdì, ma è stato rimandato a oggi. Il problema qual è? Che c'è una tensione fortissima. Se Wilson, il poliziotto, sarà giudicato innocente, ci si aspettano delle dimostrazioni di nuovo molto molto violente. Fronte internazionale, Vienna, il negoziato che dovrebbe garantire che l'Iran non costruirà testate atomiche con la tecnologia per impianti energetici nucleari non ha ancora prodotto risultati. Si è deciso però di continuare oltre la scadenza di oggi. Di nuovo è un negoziato molto importante, l'esito potrebbe determinare sviluppi importanti per il Medio Oriente, focolaio di grandi tensioni. Ma c'è un tema invece in America già aperto sul tavolo della politica che domina il dibattito ed è il nuovo braccio di ferro fra il presidente Barack Obama e i repubblicani, braccio di ferro sull'immigrazione. Sentiamo Barack Obama nel suo discorso del sabato. We're not giving up. We're going to keep on working with members of Congress to make permanent reform a reality, but until that day comes, there are actions that I have the legal authority to take that will help make our immigration system more fair and more just. And this morning I began to take some of those actions. Ecco la sfida di Barack Obama sull'immigrazione. Sabato il presidente ha ripetuto quello che aveva annunciato venerdì nel suo tradizionale discorso. Il presidente debole che ha perso il Senato alle elezioni, ridimensionato politicamente, in realtà si rialza, riprende la sfida che ha lanciato venerdì ai repubblicani con questo suo ordine esecutivo che vuole così gestire, regolamentare la complessa sfida per l'immigrazione. The president has taken actions that he himself has said are those of a king or an emperor, not an American president. And the action by the president yesterday will only encourage more people to come here illegally. John Boehner, presidente della Camera, repubblicano, minaccioso. La decisione di Obama, dice, non farà che incoraggiare più persone a venire illegalmente in questo paese, oltre a punire coloro che invece hanno agito secondo le regole e aspettano il loro turno. Boehner ha definito l'azione di Obama un'azione unilaterale degna di un re, anzi di un imperatore, e non adatta al processo democratico. Quando Barack Obama correva per la Casa Bianca nel 2008 si era impegnato a comportarsi in modo diverso, a lavorare solo e sempre con il potere legislativo, con il potere che rappresentava il popolo, in modo democratico e in modo collegiale. Devo dire che in effetti così il presidente Obama non ha fatto, perché è il presidente che ha usato più di ogni altro lo strumento dell'ordine esecutivo, non è soltanto nel caso dell'immigrazione, e quindi agendo unilateralmente, imponendo con questi suoi ordini esecutivi delle decisioni che dovrebbero riguardare invece il processo legislativo. La scusa di Obama è molto chiara: il Congresso è bloccato, i repubblicani fanno muro contro muro, resistenza ad oltranza, il paese deve andare avanti e dunque io decido anche per stimolare i repubblicani a tornare al dialogo, al lavoro, al processo legislativo, anzi a un processo legislativo trasparente, per poter lavorare per il paese. Sentiamo ieri a Face the Nation, durante uno dei talk show della domenica, Raul Labrador, deputato repubblicano dell'Idaho. Sentiamolo. We can't take the bait from the Democrats. We can't say we're not going to do immigration reform. We need to tell the American people what we're for, and we need to show them the step-by-step approach that we have been doing in the House. It's unfortunate to hear the president and other Democrats say that we haven't done anything. Ecco, Labrador apre perché dice: non possiamo cadere nella trappola dei democratici, non possiamo dire agli americani che non vogliamo fare nulla per il problema dell'immigrazione. Per quanto mi riguarda, bisogna approvare subito una nuova legge, dobbiamo partire dalla sicurezza delle frontiere e far capire agli americani che prendiamo la questione molto molto seriamente. Ecco, devo dire, è un'apertura dal punto di vista repubblicano. Il fatto che ci sia una possibilità di dialogo dopo la provocazione di Obama va considerata come una apertura. Cosa vuole Barack Obama? Barack Obama vuole restituire la possibilità di lavorare legalmente, di evitare la deportazione per molti milioni di immigrati legali, addirittura 5 milioni potrebbero rientrare in questo suo ordine esecutivo. Quali sono le condizioni? Gli immigrati illegali devono essere adulti che hanno un figlio nato negli Stati Uniti, dunque un cittadino americano, oppure con la carta verde. Due, devono avere la fedina penale pulita, devono dimostrare di aver vissuto nel paese da almeno 5 anni. Tre, devono pagare le tasse al governo federale e alle autorità statali e locali, perché in effetti molti di questi immigrati illegali in realtà già pagano le tasse nonostante non abbiano il permesso di residenza. In questo momento solo coloro al di sotto dei 30 anni e arrivati prima del 2007 possono fare domanda. Col nuovo ordine del Presidente viene abolito il limite di età e spostato il limite per quanto riguarda l'anno di arrivo dal 2007 al 2010. Complessivamente l'ordine riguarda 12 milioni di immigrati che sono senza permesso di soggiorno. Parliamo del 5% della forza lavoro americana, dunque un problema molto importante che, vi dicevo, riguarda anche noi. Vorrei continuare a parlarne nelle prossime puntate, magari sentendo cosa può capitare in Italia dopo una svolta così importante in America. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Un sogno americano per quasi 5 milioni di immigrati illegali. Un sogno per la terra promessa potrebbe realizzarsi, e dunque la canzone del giorno dedichiamolo all'America, all'America terra promessa. Bruce Springsteen, America, Land. What is this land, America? So many travel there. I'm going now while I'm still young, my darling, meet me there. Wish me luck, my lovely, I'll send for you when I can. And we'll make our home in the American land. Over there, the women wear silk and satin to their knees. And children, dear, the sweets I hear are growing on the trees. Gold comes rushing out the river straight into your hands. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!